GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Forse parlare di corsa a scudetto riaperta è un po' troppo, ma di certo il derby di Milano rovina la festa tricolore che l'Inter era a un passo dal celebrare. La stracitta di Naval, Milan, ora quarto in classifica, è virtualmente qualificato alla Champions per 2-1. Decidono nella ripresa i gol di Inzaghi e Kakà, mentre ai nerazzurri non basta il 2-1 firmato Kroos. Carlo Ancelotti a Sky Sport. Credo che l'Inter ha usato un atteggiamento prudente il primo tempo, ha cercato di contenere il gioco, ha messo la marcatura fissa su Pirlo. Questo credo che ci ha permesso di avere libertà nella costruzione con Nesta, con Ambrosini soprattutto, e quindi di tenere bene il controllo del gioco. Credo che abbiamo giocato molto bene, dovevamo giocare questa partita, quando abbiamo smesso di giocare l'Inter è venuta fuori prepotentemente. Mancini è convinto che l'appuntamento col tricolore sia solo rimandato. Una grande festa è quando vinceremo il campionato. Noi abbiamo la possibilità di fare 3 punti, avevamo 3 partite per farli. Per il derby sapevamo che poteva scapparci anche una sconfitta, vista la situazione del Milan che doveva recuperare per andare in Champions, e così è venuto. Ma questo non cambia assolutamente niente, cioè la grande festa sarà quando noi vinceremo lo scudetto. Ho sempre pensato che sarebbe stato col Siena, non ho mai pensato che sarebbe accaduto col Milan, perché comunque non credevo che la Roma perdesse punti a Genova, quindi ho sempre pensato e credo che sarà domenica, ma non cambia assolutamente niente. Ai nerazzurri in effetti basterà vincere domenica a San Siro con il Siena, che ieri ha sconfitto la Juventus per 1-0, per confermarsi campioni. Intanto però la Roma, che ha superato in trasferta 3-0 la Sampdoria, si è portata a soli 3 punti in classifica a 2 giornate dal termine. Luciano Spalletti. Abbiamo sofferto, è stato bravo Doni in un paio di situazioni. Quando poi abbiamo riconquistato e siamo ripartiti e c'era la possibilità di concretizzare poi delle situazioni a nostro favore, siamo stati lenti e impacciati. E poi nel secondo tempo la squadra ha rimesso a posto un pochettino di distanze, un po' di letture di situazioni. Dopo essere passati in vantaggio io penso che la squadra abbia meritato. Col fiato corto invece la Fiorentina, battuta 2-1 a Cagliari, ora scivolata al 5º posto fuori dalla zona Champions. Il tecnico viola, Prandelli. Quando c'è un progetto, quando c'è un'idea, non devi fermarti alla settimana, non devi fermarti al momento, altrimenti veramente diventa difficile programmare. Poi a fine campionato sicuramente faremo le nostre analisi e andremo a cercare di capire perché negli ultimi mesi abbiamo sofferto di più rispetto al girone d'andata, e sono convinto che la società cercherà di migliorare questo gruppo. In coda la sconfitta con l'Atalanta per 3-2 spinge il Livorno a un passo dalla B. Vittorie importanti per Regina, 2-1 a Catania, Parma 1-0 sul Genoa e Torino 2-1 sul Napoli, mentre l'Empoli cade in casa contro l'Udinese 0-1. Il Palermo batte la Lazio all'Olimpico per 2-1. Assegnati intanto gli scudetti in Spagna al Real Madrid e al Bayern Monaco di Luca Toni in Germania. In MotoGP Valentino Rossi torna al successo dopo 7 mesi nel Gran Premio di Cina a Shanghai. Rossi ha preceduto sul traguardo Pedrosa, nuovo leader della classifica mondiale, e Stoner. Quarto Jorge Lorenzo, che ha corso con una caviglia fratturata. Ma sentiamo Rossi a Italia 1. Un risultato importante per noi e soprattutto perché sono riuscito a guidare la moto come voglio fino alla fine. Abbiamo deciso di cambiare gomme, abbiamo fatto delle scelte coraggiose, sapevamo che ci voleva un po' di tempo. Naturalmente nel mio caso la pressione è molto alta perché tutti aspettano di vedere che risultato faccio, sapevamo che ci voleva un po' di tempo, però siamo stati sempre molto confidenti nel nostro potenziale. Va al CSKA Mosca di Ettore Messina all'Eurolega di basket. Nella finale di Madrid i russi hanno battuto il Maccabi Tel Aviv 91-77. Terzo posto per Siena, che ha superato 97-93 il Tau Vittoria dopo un tempo supplementare. Per la pallavolo va alla bella la finale scudetto tra Trento e Piacenza. Mercoledì a Trento la sfida decisiva, dopo che ieri Piacenza ha vinto in casa gara 2 al tie break. Il piacentino Zlatanov. Sicuramente abbiamo fatto un'ottima partita. Tenevamo tantissimo ad allungare la serie perché sappiamo che lottando possiamo farcela. Un piccolo passo l'abbiamo ottenuto, dobbiamo soltanto sperare in gara 3 di rifare la stessa partita con la stessa intensità. Chiudiamo con il tennis. Si apre oggi a Roma la 78esima edizione degli Internazionali d'Italia. Favorito d'obbligo lo spagnolo Nadal, vincitore delle ultime 3 edizioni. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport a partire dalle 14. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.